Carissimi amici di Runtime Radio, siamo qui tornati con questo speciale sull'Eurovision 2021. Come chi sta ascoltando live ovviamente si starà rendendo conto che siamo senza sigla, siamo senza niente, siamo un po' così, nudi e crudi, come dicevano quelli che sanno. E perché? Perché insomma questa è stata una giornata un po' così e siamo arrivati veramente all'ultimo. Ciao Michela De Paola. Ciao a tutti, scusate che c'ho il volume del computer che va da solo, sto cercando di disattivarlo, quindi se sentite rumori molesti, perdonatemi. Buonasera a tutti. E finalmente, ma non c'era la canzoncina della sigla dell'Eurovision? Ho detto, non siamo organizzati, insomma. Allora la metteremo il prossimo anno, quando commenteremo l'Eurovision direttamente dall'Italia, io insieme a Carlo Sant'Agostino. Va bene la sigla. Vabbè, io mi eclisso perché la trasmissione è la vostra, io faccio la regia. No, che stai lì, che poi parli sempre anche a te. Stai qua. Io non c'ho niente da dire, non so niente. Ma sì, che c'è sempre qualcosa da dire. Allora, abbiamo il nostro Europidia, che è Carlo Sant'Agostino, che sicuramente saprà tutto sull'Eurovision e ci spiegherà qualsiasi cosa. Mi sono documentato. Beh, diciamo, allora intanto così. Iniziamo con che cos'è l'Eurovision Song Contest. Vabbè, allora che cos'è l'Eurovision Song Contest? Allora, innanzitutto diciamo che siamo arrivati in ritardo stasera, ma in realtà siamo in ritardo di una settimana, perché ricordiamo che avevamo detto avremmo dovuto commentare in diretta, ma per varie vicissitudini familiari, casini, incontri, cose, poi è come dice Simone, noi ne pensiamo 5.000, ne riusciamo a fare 200 e poi arriviamo a un certo punto. Beh, anche tanto. Ma in realtà pure stasera abbiamo rischiato di non farla, però poi ci vogliamo bene, quindi eccoci qua. Eccoci qua. Comunque, l'Eurovision Song Contest è in realtà, molti lo schifano in Italia, proprio c'è tanta gente che non sa manco che cazzo stiamo parlando. Più che lo schifano, non lo conoscono, infatti. Non lo conoscono, l'hanno scoperto solo quest'anno, eccetera. Ragazzi, stiamo parlando del programma televisivo musicale, come concorso, uno dei programmi di concorsi televisivi e di programmi televisivi musicali di innanzitutto più longevi della storia, addirittura, perché è iniziato nel 56 ed è sempre stato tenuto tutti gli anni, e in più oltretutto è anche l'evento non sportivo più seguito al mondo. I dati di ascolto degli ultimi anni sono arrivati a 600 milioni di persone a guardare la finale dell'Eurovision Song Contest. Roba potente. Quindi stiamo parlando di veramente una cosa immensa a livello mondiale. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma l'aver vinto quest'anno per i Maneskin l'Eurovision Song Contest, e basta, loro hanno fatto. Cioè, venderanno miliardi di dischi, milioni di download in tutto il mondo. 150 è un qualcosa, milioni di è un qualcosa l'Eurovision, che non ci si rende conto, ma veramente molto molto importante. Come inoltre tutto, la cosa che poi molti non sanno è che l'Eurovision Song Contest è nato per un'idea di un italiano. Cioè, è stato inventato in Italia in realtà l'Eurovision Song Contest, perché esattamente Sergio Pugliese si chiamava l'inventore dell'Eurovision Song Contest, che era uno dei dirigenti della RAI negli anni 50, subito dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e lui si ispirò proprio al fatto che il Festival di Sanremo, a quell'epoca c'era già l'Eurovisione, cioè era già nata una... No, niente, scusa, pensavo che era l'opening, volevo far sentire la sigla. È la traduzione in olandese di quello che dice Carlo. Esatto, cioè, però fatto dall'intelligenza artificiale con la voce di una donna. Ho capito, è successo qualcosa, non me ne sono accorto. Va bene, riprendiamo, ragazzi. Allora, in pratica cosa è successo? Esisteva già un'associazione europea di la UER che era, raggruppava i principali network nazionali a livello nazionale dell'Europa. E appunto aveva creato un sistema di trasmissione che era appunto l'Eurovisione. Voi ve la ricordate tutti quando eravamo piccoli che appariva questa sigla dell'Eurovisione con questo logo bellissimo, me lo ricordo, no? Rotondo, Eurovisione, i programmi più importanti, sì, di solito lo vedevamo sulle partite, no? Le partite, ma anche il Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo veniva sempre trasmesso, se vi ricordate, Eurovisione, no? Eccola qua. E vabbè, bel momento. Ed era questa, ci riporta alla nostra infanzia. Comunque l'Eurovisione esisteva, quindi una trasmissione di un qualcosa a livello europeo e poi anche a livello mondiale. Il Festival di Sanremo riscuoteva un ottimo successo, le primissime edizioni dopo guerra, a livello europeo e mondiale come trasmissione. Allora questo dirigente Rai gli venne l'idea di proporre alla UER di fare un festival non solo italiano, ma a livello, un festival della canzone a livello europeo, cioè dove tutti i paesi europei partecipassero. E questo succede esattamente, viene subito approvata questa cosa con entusiasmo dai vari paesi, da tutti i paesi dell'Europa, e nel 56 in Svizzera, a Lugano per essere precisi, c'è la prima edizione dell'Eurovision Song Contest. I paesi che riescono a partecipare sono 7, e sono l'Italia, l'Olanda, la Svizzera stessa che ospitava, il Belgio, la Germania che a quell'epoca era la Germania Ovest ovviamente, la Francia e il Lussemburgo, signore e signori, che poi dopo ovviamente è sparito dalla circolazione, però anche il Lussemburgo ha partecipato. Siccome erano pochi i paesi, cioè 7, e questa cos'è, Simone? Questo è l'inno della Svizzera. Fantastico. Ciao Svizzera. Allegro poi l'inno della Svizzera. Ciao ciao Svizzera, ciao. E quest'anno la Svizzera rosica. Comunque presentarono due canzoni ciascun paese, perché siccome erano solo 7, per far durare un po' la gara, anziché un cantante per ogni nazione ce ne furono due, ma fu l'unica volta, perché già dalla prima edizione in realtà volevano già partecipare anche l'Austria, la Danimarca e l'Inghilterra, ma non fecero in tempo a preparare la canzone per portare i cantanti nell'edizione del 56, e parteciparono con l'edizione successiva, quella del 57, dove i paesi diventarono 10, e quindi a quel punto fu un solo cantante per ogni nazione. Nella prima edizione vinse la Svizzera, cioè il paese ospitante, con una canzone con si chiama una cantante Lissa, che io ovviamente non mi ricordo. L'Italia si è presentata con, ovviamente, già da subito chi andava il vincitore di Sanremo. È arrivata, e nella prima edizione, siccome erano due, rindò al primo e al secondo, e la Franca Raimondi con Aprite le finestre e Tonina Torrielli con Amami se vuoi, di cui adesso Simone ci agevolerà. No, scherzavo. Come si chiama questa di Aprite le finestre? È già partito il Simone. Come si chiama quella di Aprite le finestre? Come si chiama? Franca Raimondi. Franca, aprite le finestre. Aprite le finestre, nuovo sole, primavera. Ah, conosci? Certo. Ah, beh, lei sì, lei è esperta di musica. Ma io veramente so. Agevoliamo la qualità dell'audio, soprattutto. Per questa è sempre. È carina, dai. Questa mi ricorda Mary Poppins, come sì, un po' sì, vabbè, questi cantavano tutti così, ma poi in realtà secondo me era pure i sistemi di registrazione che elizzavano la voce, no? Tipo Elio, sembra. Comunque, dal secondo anno già si decide che chi vince, il paese che vince l'edizione, sarà quello che poi ospiterà l'edizione successiva. Quindi le regole dal 56-57 non è che sono molto cambiate, si è andata avanti così. E quindi chi è che ha vinto? Nella seconda edizione ha vinto non lo trovo. Vabbè, comunque l'Italia nella, so che l'Italia nella seconda edizione arrivò a seconda, no, arrivò sesta. Ah no, ecco cosa è successo nella seconda edizione. Già iniziamo a rompere le palle, perché nella seconda edizione si esibisce Nunzio Gallo con Corde della mia chitarra, che era una canzone che durava 5 minuti e quindi, siccome gli altri invece duravano di meno, lui aveva la canzone invece più lunga, che occupò 5 minuti della trasmissione, e allora fu introdotto nelle regole che i brani dovevano per forza durare 3 minuti e non di più. Infatti tutti i brani, anche oggi, che partecipo all'Eurovision sono permettimi corde della mia chitarra di Nunzio Gallo, no, ma addirittura dall'Eurovision Sound Contest 1957 04 esatto, Italy, Nunzio Gallo che suonava pure lui, quindi era proprio un figaccione, tra l'altro filmato in pellicola degradata. Vabbè, dai. Vabbè, comunque. Ma quindi adesso diciamo tutte le edizioni dei 60 anni. No, adesso vado veloce. Era solo per dire gli inizi, cosa è successo, e per dire che è cambiato poco. Ma dobbiamo anche capire cosa è successo dopo, perché in realtà poi il festival c'è tutti gli anni e non ha mai smesso. Però siamo arrivati a un punto in Italia, e dopo lo capirò perché, che quasi non sapevo neanche che esistesse, no? Perché cosa succede? Le successive edizioni 58-59 vanno avanti, chi vince, arriva l'Italia sempre di solito il vincitore del Festival di Sanremo, o se rifiutava il vincitore va al secondo. Addirittura nel 58 abbiamo Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu, che anche se si classifica terzo solamente nel Eurovision Song Contest ha comunque un successo mondiale, come sappiamo, Nel blu dipinto di blu è ancora una delle canzoni più ricordate al mondo. Quindi la manifestazione non solo funziona, viene anche ascoltata e ha un grande successo internazionale. Negli anni 60 va avanti questa manifestazione e l'Italia continua a partecipare e arriva addirittura a vincere, come sappiamo, la prima volta con Gigliola Cinquetti, ok, con Non ho l'età, che aveva vinto la manifestazione, aveva vinto Sanremo, va all'Eurofestival e vince anche l'Eurofestival. Ma quindi praticamente partecipavano le stesse canzoni del festival nazionale praticamente. E quanto riguarda noi sì. Come adesso, per quanto riguarda noi sì, poi gli altri avevano altri metodi di selezione, ma diciamo che non è che... Pure Eurovision Song Contest Winner 1964 Original Gigliola Cinquetti, Non ho l'età. Chissà quanti anni aveva Gigliola Cinquetti? Non lo so, ma penso che era Pischel. Quanto è bella sta canzone, però sapete che è sempre stata bella sta canzone. Sì, è bella, è vero. Aveva 15 o 16 anni, comunque era una bambina. È ancora viva Gigliola Cinquetti? Certo. da mo che è viva. Vabbè, comunque no, è vero. Ripeto, che è bella sta canzone, comunque mi è sempre piaciuta. Scusa, vai, scusa. Porta quindi il festival per la prima volta in Italia, a Napoli viene fatto il festival di Sanremo, e devo dire che quell'edizione lì, che se non mi ricordo quale, del 63, non ce la cavammo male comunque nella creazione dell'edizione eccetera, se andiamo a vedere i filmati fu una bella manifestazione. E negli anni però purtroppo poi il contest prosegue negli anni 60 e soprattutto negli anni 70, è una, diciamo, una manifestazione che non porta più grandi, per svariati motivi, grandi onori all'Italia, cioè non riusciamo mai poi a classificare, anche se riusciamo sempre a arrivare comunque in buone posizioni, praticamente non lo vinciamo più, vincono, iniziano a vincere i Paesi Bassi, i paesi del Nord Europa come Finlandia, Norvegia, Svezia, e poi la Francia soprattutto vince, e anche l'Inghilterra, che per quanto noi sappiamo che nell'ultima edizione, come tutti probabilmente abbiamo detto, ha preso una bella mazzata, in realtà lo vince diverse volte l'Eurovision Song Contest. Assolutamente sì, se non sbaglio è la seconda nazione o la terza che come numero di vittorie della forza Italia, dai. No, forse Italia no, ho sbagliato, scusa. Inghilterra. Comunque, andiamo velocemente. Negli anni 80, come ho detto, questa manifestazione prosegue. Dicono che in realtà negli anni 80 sia stato il periodo di maggior successo e conoscenza della manifestazione, ma da noi, io almeno nei miei ricordi di ragazzo, e non so i tuoi o quelli di Michela, non è che ce lo ricordiamo molto bene, non era molto pubblicizzato. No, assolutamente, io in realtà l'ho notato e mi sono interessata più adesso che più negli ultimi anni, anche perché avevo visto qualcosa su Netflix che mi aveva un po' incuriosito. Ma come tutti, diciamo. Poi, no, io in realtà da ragazzino lo conoscevo l'Eurovision. Diciamo che non è che ero proprio un seguitore, proprio appassionato. C'era. Però mi piaceva questa idea della competizione europea, mi è sempre piaciuta. Per tutti gli anni 80 si è tenuto, l'Italia continuava a partecipare, non solo con grandi cantanti comunque, perché c'è andato Alan Sorrenti, ci sono andati Franco Battiato e Alice nell'edizione dell'84, per esempio. Nell'83 c'è andato Riccardo Fogli, ci sono andati Albano e Romina Power con una canzone in inglese addirittura, Magico Magic, che cantavano nell'85, per dire. Quindi l'Italia continua a partecipare, ma evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella nostra comunicazione, e si inizia a narrare che la RAI boicottasse in parte l'Eurovision. Questo non ho trovato delle conferme, ci sono solo due o tre righe. Beh, diciamo che non si impegnava tanto, questo bisogna. Non si impegnava tanto, e questo ha causato un po' una rottura a un certo punto. Beh, diciamo che poi anche politicamente poteva essere una scelta politica, anche quella di, visto il messaggio comunque dell'Eurovision, o comunque il tentativo di dare. Beh, ma allora negli anni 80 no, non era quello. Secondo me c'era forse forse più ragioni dei diritti musicali, Probabilmente qualcosa di economico dietro, perché si parla appunto di soldi e di impegno monetario, perché comunque ricordiamo che l'Italia ha sempre fatto parte dei paesi fondatori, e quindi era una di quelle che comunque ci metteva dei soldi all'interno dell'Eurovision. Diciamo che il bubbone scoppia per due motivi: uno, che quando vince nel 90 vince Toto Cotugno l'Eurovision, e quindi l'Eurovision poi l'anno dopo viene nel 91 viene ospitato a Roma, a Cinecittà esattamente, molte critiche. Sto facendo sentire la canzone con la quale Battiato, che ragazzi pure lui era la via di mezzo tra un ragazzino e ricordiamo Battiato, ricordiamo anche ovviamente Battiato, ricordiamo che domenica se ce la facciamo facciamo la live insomma in onore di Battiato. Cosa succede? Nel 91 viene ospitata a Roma, e ci sono tante critiche a quell'edizione, perché innanzitutto l'Italia decide di partecipare con Peppino Di Capri con una canzone in napoletano, e viene presentata l'evento, viene presentato da Toto Cotugno, che era il vincitore dell'anno prima, e Toto Cotugno sappiamo che non è, a parte che non penso che abbia mai fatto il presentatore. In quel periodo lui faceva il presentatore sulla RAI. Comunque non è che sapesse molto l'inglese. E questo forse quello magari sì. Infatti la trasmissione durò addirittura un'ora e mezza di più di quello che doveva durare, e ci furono critiche perché appunto lui parlando italiano, mezzo italiano, qualche parola in inglese, poi non si capivano bene con i cantanti, insomma non fu una grande organizzazione quella del in realtà fu organizzato meglio quello degli anni 60 quando vinse Gino Cinquetti a Napoli. Quindi da allora in poi non hanno fatto più vincere l'Italia perché c'erano paura che c'era tutto. No, non è che avevano fatto più vincere l'Italia, in realtà l'Italia andò ancora a partecipare, ma per queste critiche soprattutto arriva adesso l'anno, doveva essere fine degli anni 90, comunque in pratica l'Italia, quando vincono i Jalis nel 1997, vincono i Jalis il Festival di Sanremo, vi ricordate Jalis, no? Fiumi di Palore, chi non se la ricorda, quel fulmine a ciel sereno che arrivò e vinse senza che nessuno sapesse chi erano i Jalis prima di arrivare a Sanremo. Andò ovviamente all'Eurofestival di Dublino nel 97 e ci fu proprio delle polemiche in quell'edizione, perché addirittura Fiumi di Parole arrivò addirittura quarta, quindi un ottimo piazzamento all'interno dell'Eurovision Song Contest. Siamo degli anni che non abbiamo capito questa canzone. Ci furono delle polemiche proprio scoppiate su un possibile sabotaggio, dicono, della RAI, che non voleva ospitare nuovamente l'evento, e quindi a quel punto screzi eccetera, insomma si presume per questione di soldi, 97 l'Italia dice vabbè non partecipo più, quindi per quindi questo l'Italia poi ha smesso di partecipare, ha smesso di partecipare nel 98, non c'era l'Italia, ha smesso di partecipare nel 98, ecco di sottofondo la mitica Fiumi di Parole dei Jalis. Esatto. L'Italia ha smesso di partecipare e basta, non ci voleva più andare, e non ci andava. Quindi le edizioni successive continuano a svolgersi nei vari paesi europei, dove la manifestazione invece continua ad aumentare il suo successo sia dal punto di vista del numero di spettatori, soprattutto con quello che avviene con l'apertura verso i paesi dell'Est Europa, che finalmente iniziavano a uscire, insomma, a presentarsi al mondo occidentale, perché ricordiamo che tutto, come spesso raccontiamo anche in archeologia informatica, fino alla la caduta del muro di Berlino eccetera, quello che succedeva di qua e quello che succedeva di là succedeva di là. Quindi invece in quegli anni gli ex paesi del patto di Varsavia, cioè del blocco sovietico, iniziano a uscire un po' da tutto il clima di povertà, di post guerra eccetera che c'era stato in quegli anni, e quindi a partecipare anche all'Eurovision Song Contest. E Serbia, Montenegro, Albania, Andorra, Bielorussia, insomma Ucraina eccetera, iniziano a partecipare. Ucraina. E quindi ad arricchire sia di pubblico sia di canzoni l'Eurovision Song Contest, che aumenta la sua popolarità, il mercato potenziale delle canzoni. E noi pensiamo a questo punto, ma l'Italia quando è che torna l'Italia? L'Italia torna addirittura nel 2011 o 2012, 2011, ok, nel 2011 torniamo all'Eurovision Song Contest, quindi stiamo via tantissimi anni. Pensate che per il fatto che dal 98 fino al 2010 praticamente l'Italia non è andata all'Eurovision Song Contest, nessuno in Italia ne parlava più, addirittura ci sono delle interviste a alcuni cantanti che credevano che il festival fosse stato cancellato, cioè che non esistesse più, addirittura è quello che ho pensato pure io, infatti sì. Molti l'hanno pensato. In realtà non solo c'era, ma l'organizzazione europea continuava a chiedere all'Italia: vi prego partecipate. Cioè erano loro, sono stati loro a insistere. Beh, si vede che gli portavano pubblico, evidentemente, comunque. Portiamo pubblico, portiamo soldi, soprattutto soldi. E quindi l'Italia per tanti anni, la dirigenza RAI proprio ha fatto orecchie da mercante, fino che evidentemente a un certo punto hanno deciso, dopo il 2010 si sono resi conto probabilmente i dirigenti, che questo un po' con la globalizzazione, un po' per il successo effettivo di pubblico che stava riscuotendo in tutto il mondo, forse era il caso di tornare. Ma ci siamo tornati alla grande, perché siccome non eravamo, cioè noi facciamo quelli schifi, no? Facciamo un po' come l'Inghilterra che non vuol partecipare ai mondiali di calcio perché hanno inventato loro il calcio, ecco, l'Italia più o meno si comportava in questo modo, diceva no, ma noi l'abbiamo inventato noi, e lì fu convinta a ritornare, anche perché fu introdotto quello che stavo cercando di spiegare poi anche a Michela settimana scorsa, quando parlavamo delle preselezioni, i famosi Big Six, cioè i grandi sei, nel senso che nel regolamento è stato introdotto il fatto che i paesi fondatori, ma in realtà non sono tutti i paesi fondatori perché non c'è Lussemburgo per esempio, ma quelli che hanno fatto la prima edizione, ma in realtà sono, in verità sono anche i paesi che ci mettono più soldi nell'organizzazione dell'Eurovision Song Contest dal punto di vista proprio delle sponsorizzazioni eccetera, e tra queste Big Six c'è l'Italia, quindi l'Italia ha detto no, tornate, voi siete, vi mettiamo infatti di default, c'hanno in i stessi privilegi dei fondatori, quindi. Sì, no, l'Italia è nei Big Six ed è una delle sei nazioni che non fa le preselezioni e non solo, e che va in finale diretta, va in finale diretta, ma anche vota, fa votare il pubblico italiano, vota nelle semifinali chi deve passare e chi non deve passare. Infatti poi questo lo vedremo. Comunque nel 2011 torniamo da subito, guarda che anche, e da lì si inizia a parlare dell'Eurovision Song Contest, perché iniziamo a partecipare con cantanti seri, Rafael Gualazzi per esempio nel 2011, che addirittura arriva secondo, con una bella canzone, perché Rafael Gualazzi prima di non so morire per droga, non so che ha fatto, no, non è morto, però insomma mi sembra che sia un po' rimbambito, era un grande compositore, un grande cantante, veramente bravo. Infatti arriva secondo per un pelo, oltretutto abbiamo già rischiato di vincerlo mentre arrivava nel 2011, nel 2012 c'è Nina Zilli, poi nel 2013 Marco Mengoni, insomma ci sono Emma Marrone del 2014, che forse è quella che si è piazzata peggio negli ultimi anni rispetto alle varie manifestazioni, nel 2015 Il Volo, ok, mamma in terza mia posizione, grande amore del Volo che sappiamo poi è successo tutto. Madre. Lo so, però ragazzi, dobbiamo capire che chi partecipa all'Eurovision vende un sacco di dischi in tutto il mondo. Il Volo ne ha venduti uno sproposito. E nel 2019, prima del 2020, che come sappiamo non si è disputato l'Eurovision Song Contest per via del Covid, c'è andato il vincitore di Sanremo, Mahmood, no? Con soldi. Mahmood con soldi, che si è classificato comunque bene, non mi ricordo se terzo o quarto, adesso vado a vedere. Che non è manco italiano poi, sì. Che vergogna. Che vergogna. Vende tantissimo ed è conosciutissimo all'estero, sì, perché sì, ha partecipato all'Eurovision Song sì Contest. Quindi quello, okay, sta a posto per tutta la vita pure lui. Eh beh, abbastanza. Cioè, comunque partecipare all'Eurovision Song Contest... Ma scusa, perché anni non ci hai fatto sentire Mahmood invece di così, perché intanto avevo trovato questa, non mi rompete le zebedeie, scusate zebedeie. Ma chi è il questo? Volo. Scusi, chi è questo? Il Volo. Il Volo, lui è il Volo. No, sono i tre ragazzetti che cantano lì. Ah, sono tre. Sono famosi poi in tutto il vabbè, mondo. Dai, però sono carini, dai. Ma sono antichissimi, ma vabbè, dai, ma ci sta, raga, ogni tanto un po' di vintage, carino. A me e Carlo ci piacciono sicuramente. No, siamo vabbè, a me piace così tutto. Io non faccio testo perché a me la musica piace tutta. È difficile, che sono un onnivoro di musica. Spesso quello che gli altri dicono fa cagare, a me piace. Quindi non faccio testo molto probabilmente. Comunque, questo per farla breve, insomma, quindi avete capito cosa è successo da quando e di che cosa stiamo parlando. Quindi stiamo parlando veramente di qualcosa che... Nelle prossime 4 ore vi faremo ascoltare tutte le canzoni se così si muore. Ecco, questa ci piace. Te la soldi, soldi. Per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto rana. Ah, pure riarrangiata poi, Sì, molte canzoni. Ecco, un'altra cosa che le non ho detto: sono pre-registrate all'Eurovision. Sì, all'Eurovision non puoi suonare, puoi cantare in live ma non puoi suonare, non c'è l'orchestra, quindi le canzoni sono preregistrate e, come ho detto, la durata deve essere di 3 minuti esatti. Infatti, ah, quindi devono essere per forza riprodotte, certo, okay. Riprodotte, perché molto spesso non sono, sono più lunghe. Quella dei Maneskin, per esempio, era più lunga, quindi è stata modificata, tagliata, adattata. La riarrangiano, ok, sì. La riarrangiano, non solo, poi ci sono delle altre regole anche abbastanza pressanti. Una di queste è il fatto che le canzoni innanzitutto devono essere assolutamente canzoni originali, quindi non devono essere basate su altre. Infatti qua io oggi ti ho detto di scaricare un pezzettino di una musica che tu hai detto: ma che cazzo è questa musica qua? Non so se tu riesci a riprodurla adesso. Aspetta. Ma si tratta praticamente del fatto che c'è stata quest'anno, le polemiche non sono solo state sulla droga dei Maneskin, come tutti abbiamo sentito dai tutti i telegiornali, la droga dei Maneskin, ma ci sono state tante polemiche, ci sono tanti rompicoglioni, perché siccome è una manifestazione molto importante, vengono controllate tantissime cose, tra cui il fatto che la canzone deve essere completamente originale. Io declino ogni responsabilità. Però è molto simile alla canzone ucraina. È la stessa, perché Se io veglio è una canzone popolare ucraina, che il gruppo dell'Ucraina ha partecipato quest'anno all'Eurovision Song Contest ha ripresentato come canzone moderna. Questo ha portato molte polemiche per il fatto che le regole dell'Eurovision Song Contest dicono che deve essere una canzone completamente originale. Detto questo, non so se vuoi mettere su già la canzone dell'Ucraina, che tra parentesi è anche una delle mie preferite, sì, dell'Eurovision Song Contest. È bella e brava pure la canzone. Sì, non solo, è anche la preferita dei vincitori. I Maneskin hanno dichiarato che la loro canzone, sì, preferita era appunto questa. Degli, che si chiama? Degli, allora, si la chiama canzone ucraina si chiama Goa con Shum, si chiama Shum. Ok, aspettate, che ve la trovo, abbiate voi parlato intanto. Comunque, come abbiamo sentito questo pezzo qua, adesso lo ritroveremo nella canzone, e questo, come ho detto, ha creato questo particolare. Non solo, ci sono altre regole, per esempio non si possono dire parolacce nelle canzoni, è vietato. Infatti anche la canzone, la canzone dei Maneskin, che conteneva delle parolacce, l'hanno dovuta modificare, e infatti il testo non è identico, anche se poi quando hanno vinto sul palco Damiano se ne è fregato i coglioni, ha cantato la canzone. Certo, ormai hanno vinto, giustamente, tanto ormai hanno vinto, quindi chi se ne frega, e l'ha cantata col testo originale. Eccola, sentiamola, per questa Весняночка, весняночка, де те зимувала, я садочко на кленочко сорочечко пряла. Там у лісиною з лісі сова воду дує, заспіваю співаночко, нехай вона чує. Заплетися, що ми барвіночком, я тобі співаю весняночко. Сію, сію, сію конопилички, сію, сію, сію, сію зелені ситки. Qui è Massimo il gladiatore. No, direttamente da Radio Cassa Dritta, Shum. Esatto, Shum. A numerosi punti, uno è il fatto che viene cantata in lingua originale, quindi questo secondo me è un plus, perché c'è stata anche quest'anno una normalizzazione di tantissimi paesi che, anziché cantare nella propria lingua, hanno cantato in inglese, sì, ma non solo cantato in inglese, hanno cantato canzoni che non sono, che sembravano canzoni normali, pop tranquillo, cioè non, senza nessuna personalità, senza nessuna caratterizzazione particolare. Non so se anche tu, Michele, hai notato questo in assolutamente sì, cioè sembrava veramente, sembravano canzoni che venivano comunque da scene internazionali non europee. Questo sì, ho visto comunque, non so, mi ha colpito molto per esempio San Marino, cioè il cantante, sì, la cantante sammarinese sembrava un po' Beyoncé, un po' Beyoncé, brava, sì, sì. È perché quella di Malta anche uguale, sì, cioè sì. Non, cioè, ce n'erano tantissime che non avevano la personalità del paese che rappresentavano. Il fatto che l'Ucraina invece canti una canzone in ucraino e una canzone che poi in realtà era una canzone popolare, per me invece è stata un'ottima cosa. Infatti poi in realtà alla fine la giuria ha deciso di farla comunque passare, anche se riprendeva i versi di questa canzone popolare, diciamo con la scusa che il fatto che il copyright non fosse di nessuno, perché era una canzone popolare. Ma paraculi, mi permetti solo di seguire un mio ordine con le canzoni? Vai, vai. Perché sennò purtroppo io ho fatto... era l'unica eccezione. Io c'ho una domanda che non sono... Vabbè, vai, così poi dopo vi inizio con i brani. Ho avuto un po' di casini al lavoro, non sono riuscita ad approfondire quello che avrei voluto approfondire io stasera, ovvero, ma che cazzo la c'entra Israele? Tutti chiedono questo. Questa è la domanda che chiunque si è accorto che ho, cioè quest'anno si sono accorti in tanti, grazie ai Maneskin, che esiste l'Eurovision. E tutti hanno fatto questa domanda. Ma allora, Israele che c'entra? Pure con le competizioni UEFA, Israele, che c'entra? Che c'entra l'Australia, allora, a questo punto. Anche. Forse anche meglio. Però Israele risalta all'occhio. Risalta di più perché ci rompe i coglioni a noi che sia Israele, per il fatto che è in guerra, per il fatto che ci sta antipatica, va bene. Però diciamo che dal punto... tolte queste, diciamo, antipatie politiche, è semplicemente un paese non europeo. Ma in realtà l'Eurovision Song Contest ha aperto da anni la partecipazione ai paesi non europei. Su che base? Sulla base dell'ascolto, nel senso che in molti paesi non europei, non si sa bene perché, non si sa bene per come, ma in realtà l'Eurovision Song Contest, avete sentito cosa ho detto all'inizio, è la trasmissione non sportiva, evento non sportivo con più ascolti al mondo in assoluto. Per esempio, sia in Australia che in Israele, eccetera, l'Eurovision aveva, anche quando non partecipavano, aveva raggiunto delle vette di proprio di share televisivo incredibili, cioè proprio da prima serata con milioni di... Per forza, in Australia la metà sono europei e l'altra metà sono italiani, quindi insomma... Ma anche in altre nazioni, anche in Africa, anche in paesi del Sud America, negli Stati Uniti da qualche anno è molto visto, è seguito anche negli Stati Uniti. Un po' come ho detto, forse anche per il discorso della globalizzazione, no? Che inizia ad aprire un po' le porte. Diciamo anche che, per rispondere un pochino, anche se collateralmente, Israele, facendo anche nelle competizioni calcistiche, fa parte della UEFA e non della Federazione Asiatica, per ragioni anche sociopolitiche, chiaramente, perché probabilmente partecipare a certe competizioni per le squadre israeliane sarebbe quantomeno disagevole, diciamo così, insomma, anche giustamente disagevole. Però allora, ragazzi, io partirei con Elena Zagnoglu. Aspetta, prima di partire dico un'ultima cosa, poi partiamo con tutto. Prima non avevo detto le vittorie per paese, cioè qual è la nazione? Il medagliere. Non immaginate mai chi c'è al primo posto. La Gran Bretagna. Al primo posto? No. La Svizzera? No. La Francia? No. Infatti ho detto non c'è, direte, ma lo dire io. C'è l'Irlanda. L'Irlanda, beh, ci sta. Beh, l'Irlanda ha vinto 7 edizioni dell'Eurovision. Mortaccio, perché sono al secondo posto una nazione che in realtà me l'aspettavo più o meno, ed è la Svezia. Perché la Svezia loro ha prodotto tantissimi gruppi, tantissimi cantanti, ABBA in particolare, comunque ha vinto 6 edizioni la Svezia. Beh, dai. Con 5 vittorie abbiamo l'Olanda, l'Inghilterra, il Lussemburgo e la Francia. Quei bastardi di Francia, quegli amici, i cugini dei francesi, hanno vinto 5 edizioni e al quarto posto il paese che abbiamo appena citato, cioè Israele, ha già vinto 4 edizioni dell'Eurovision Song Contest. Non ci siamo. Vinto quella del 78, del 79, nel 98 e nel 2018. Non ci siamo. Con il fatto che noi quest'anno abbiamo vinto la nostra terza edizione, siamo, insieme alla Danimarca e la Norvegia, siamo a 3 vittorie dell'Eurovision. Recupereremo. Vabbè, dai, allora iniziamo con il primo brano, cioè, ovviamente i brani ci sentiamo poco perché insomma noi possiamo fare come sapete insomma sì, e sì, il diablo, e il diablo, e il diablo, vai, io l'ho messo, okay, okay, l'ho messo okay, secondo okay, un ordine. Sì, allora, sì, sì, sì, quello che ti ho mandato io. Okay, l'ordine tuo, però prima ci sono tutti i rossi. Poi eri finiti, okay, arrivati ai Måneskin ci stanno pure tutti gli altri, capito? Cioè, è un ordine un po' strano. Vabbè, potevi pure non mettere gli altri, tanto vabbè, siamo però, già tipo, sentiamo, alle 10:20. Quella di Chip al diablo, poi dico... Vabbè, questa è Ciao 2020, praticamente. Allora, Ciao 2020, molti, moltissimi sono Ciao 2020. Ma cosa è successo con questa di Cipro? Questa Elena Sangrinu. Ah, questa è Cipro. Sangrinu. Sì, allora, a parte che ha portato una canzone che è cantata in inglese, dance, eccetera, ma soprattutto è stata molto criticata perché in realtà musicalmente copia in maniera quasi spudorata una famosa canzone di Lady Gaga. Ma infatti io, quindi, cioè, io quando la sento questa canzone è proprio praticamente identica a una canzone famosa di Lady Gaga. Okay, vabbè, quindi era molto quotata, nel senso che è piaciuta a molti, ma è piaciuta anche perché ricordava quella di Lady Gaga, che non era roba sua. Esatto, uno dice che cazzo porti, vabbè. Quindi comunque questo era per dire che Cipro è una di quelle nazioni che ha partecipato con una canzone, nel senso, secondo me inutile, che anche se non sì, infatti dimenticabilissima, lì, esatto. Vabbè. Invece, la seconda avrai messo la Russia, giusto? Esatto, la Russia, Russia Woman. Grande. Che ovviamente questa canzone ha rotto veramente i sistemi gabbasini in Russia. Sì, sì, sì, sì, veramente. Aspetta. Questa è la versione russo, perché c'è anche ручечки, ручки. Кто подаст мне ручку, девочки? Allora, che c'è da dire su sta canzone? Prima di tutto faccio una domanda: ma sono riusciti a tornare in patria queste poi? Allora, sì, lei è comunque sembrerebbe una... di sì. Una ragazza, mi sembra che viene dall'Azerbaigian, comunque da un paese, sì, sì, da un paese comunque russo, però non è propriamente russa, insomma, e ha fatto questa canzone in cui praticamente incitava le donne russe a alzarsi e cominciare a combattere, quindi muovere il culo e cominciare a combattere per i propri diritti, e ha raccolto tantissimo entusiasmo nella popolazione russa, anche un po' d'orgoglio, no? Nella popolazione, sì, russa, che comunque ha detto: vedi, siamo così, siamo anche questi, noi che combattiamo, insomma. Esatto. Quindi ha fatto un po' anti Putin, insomma, come dire, un po' tanto, solo... un po' tanto, raccoglie poi tanto. Comunque è una canzone molto inclusiva che raccoglie diverse tipologie di donne, anche se sì, questa è più bella. Qui c'è stato delle sonorità che ci richiamano delle cose, sono delle sonorità che richiamano degli inni. Anche la scenografia con cui lei ha con cui lei è apparsa la serata, cioè lei è entrata vestita con questo abito tradizionale del proprio era paese, vestita da matrioska, sì, gigante, da matrioska gigante, più o meno era, non era proprio una matrioska in realtà, lei aveva proprio un abito tradizionale. E poi sì, si è aperta matrioska come una matrioska, sì, sì, è uscita, no, fuori proprio a forma di matrioska, lei era dentro come, sì, una matrioska, usciva solo con la testa. E ci sono numerose particolarità da dire, che l'abito era costruito con pezzi di stoffa mandati da tutti i paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica, le città, dalle varie associazioni a difesa della donna, sì, di cui lei si era fatta un po' portavoce. Sì, ma quindi è una cosa molto politica la sua presentazione, sia come testo sia come rappresentazione sia come significato di quello che voleva dire. Diciamo che non è stato facile per lei neanche arrivare all'Eurovision. Ha avuto un bel coraggio, soprattutto. Sì, ha avuto un bel coraggio, ma ci sono state, c'è stata più di una interrogazione parlamentare nel governo relativa a questa questione. La Russia sta hanno messi veramente male, ragazzi. Comunque, in questo campo, il diablo andava eliminata perché dura 3 minuti e 01 secondi. Sì. Ok. Comunque, un'altra cosa che non ho detto e che è venuta fuori adesso con questa esibizione di cui abbiamo parlato, che nell'Eurovision Song Contest è anche molto importante l'esibizione sul palco. Cioè l'esibizione sul palco fa molto del punteggio, della classificazione. E infatti le serbe o le croate lo sapevano e sono venute fuori ste tre spilungone stupende proprio, che hanno proprio acceso gli animi di tutti, perché bellissime. Lì c'era un quintale di capelli, non si capiva più bene tanto. Comunque andiamo al brano successivo, che un secondo, arrivo subito, torno subito, che c'ho un problema con una finestra aperta, subito. Intanto dico una cosa, sto dicendo, è molto importante lo show ed è molto preparato, è bellissimo, molto tecnologico negli ultimi anni, con la presenza di questi mega schermi giganti sia sul pavimento del palco sia dietro che ai lati, con un palco gigantesco. E se andate a vedere la canzone che abbiamo anticipato prima, Shum, dell'Ucraina e dei Goa, secondo me è stata anche molto votata per la scenografia, perché devo dire che era in assoluto la migliore come scenografia relativa alla canzone, e se andate a vederla potete rendervi conto di cosa hanno fatto anche a livello di animazione preparata dietro nel video. Ma anche la Russia era molto molto bella, anche quella della Russia, con tutte le immagini delle donne che cantavano dietro in un mosaico, che partecipavano, insomma, tutte le esibizioni che sono state fatte bene hanno portato voti e comunque successo, hanno portato un più, insomma, certo, un plus, hanno portato un più. Okay. Mentre molte un minus, soprattutto la maggior parte di quelle che hanno copiato gli anni 80 in una maniera spudorata, cioè c'erano veramente delle cose che sembrava, come ti avevo detto settimana scorsa, di vedere Disco Rick. Molte cose si risentivano dalle sonorità, ma questo è un po' il periodo così, comunque. Vabbè, possiamo andare avanti, giusto? C'è il Portogallo. Sì. Allora, adesso ci sta praticamente L'amore dalla mia parte, di Black Mamba. Black Mamba, Love in Passato. Direttamente da Nashville, in Texas. Bravissima. Left home when I was only sweet 16. Portogallo proprio qua. Certo, e poi se mi dite che cazzo c'è il Portogallo qua. Love in a bunch of broken dreams. Bella, canzone, bella, se piace. Però col Portogallo. No, la canzone è bellissima, ma non lo sento il Portogallo, diciamo. No, manco noi. Non si percepisce l'oceano del Portogallo. Ma anche guardandoli, anche la scenografia, insomma, proprio tutto, non ricordava niente. Come ha detto giustamente Michela, sembrava la Nashville, cioè degli americani. Sì. Texas, non so, qualcosa del genere. Ma carina la canzone, per carità. La canzone è carina. Ovviamente, ovviamente ammicca a vendere oltreoceano, insomma. Ha avuto anche un ottimo successo di pubblico con le votazioni, però effettivamente c'entra poco col Portogallo. Ecco, come non c'entra niente il rock nell'Italia, però almeno noi. Beh, vabbè, non è abbiamo cantato, non è vero, in italiano. Però abbiamo cantato in italiano. Quindi considerare che l'Italia è sempre stata la grande patria del progressive negli anni 70. Quindi, alla fine, comunque la tradizione rock c'è. Diciamo che noi siamo più conosciuti della musica leggera, ma anche non sempre propriamente. Insomma, però comunque vabbè. E niente, vabbè, bella canzone. Dicesimo, io adesso questo lo schifo e parla Michela. Vai Michela, vai tu. Ah, chi è? La Svizzera? No, vabbè, ma io ho tifato. Sì, ma fatela sentire un secondo. Secondo, solo un secondo. Sì, perché non è brutta comunque. Ma già che è in francese. Lo so, purtroppo quello è un problema. Le moment de grandir. Bravo. Oh, scusate. Vai Michela, parlaci di questa canzone. Perché tu facevi il tifo per la Svizzera? Perché secondo me è una bella canzone. Tu ti, quando pensi alla Svizzera devi pensare a quei 100 euro che hai speso quella volta che ti sei fermata all'autogrill. Portarci loro. Ma no, soprattutto io penso al fatto che siamo rimasti bloccati ad uno dei tanti passi che ci stanno in Svizzera e non sapevamo come poter fare la pipì. Quindi al Gottardo, vabbè, ma lì è così sempre. Quello è stato l'incubo peggiore, insomma. Peggio dei 100 euro per me. Allora, innanzitutto la canzone non è una brutta canzone, nonostante è francese, mi ha ricordato un po' le melodie del 3 minuti e 3 secondi andava squalificato questo. Le Von Porterà, vi ricordate quel gruppo di quel cantante che aveva ucciso tipo la moglie? Vabbè, insomma, no. Mi ha ricordato comunque aspetta, un... sì. Vagamente sì. Noir Désir, sì. Brava, no? Brava. Sì, non mi ricordo, sì. Mi ha molto, cioè non è brutta la canzone. Poi lui è un personaggio, cioè lui non sapeva muovere le gambe per niente, proprio, cioè proprio non sapeva fare neanche un passo di danza. Ma perché è un uomo? Qui, sì. Un uomo, e quindi uomo, sì. Si esibiva con le balle strizzate, dimenandosi, ma sì. Ah, quello delle mutande strizzate. Sì. Dimenandosi con le braccia in modo. Vabbè, ma non è che la francese era meglio, la francese dava da certe botte da scella. No, vabbè, ma lei comunque se animava mentre cantava, mentre lo svizzero proprio faceva dei balletti con le braccia. E sta cosa gli ha fatto guadagnare moltissimi punti. Poi però ha rosicato una cifra quando ha perso, io non... quindi lì. Guarda, io non avrei scommesso una lira su questo qua della Svizzera, una lira soprattutto. Vabbè, a me non piaceva minimamente. Neanche un franco svizzero. Gusto mio, esatto. Però mi ricordo che tu, quando l'abbiamo sentita la semifinale, tu hai detto: però è bravo, però è bravo. Bravo per me, sì. E poi tu a un certo punto hai detto: per me vince la Svizzera. Sì. Quando ho visto nelle votazioni della giuria che la Svizzera al primo posto, ho detto. Ma come cazzo ho fatto? Cioè, evidentemente se è piaciuta a te vuol dire che comunque è piaciuta. La canzone è carina. No, è una canzone anche tecnicamente, cioè la voce è molto bella, anche tecnicamente comunque si presta a diverse tipologie. Sì. Perché noi ci facciamo influenzare dalla soggettività del nostro. Sì, sì, no, effettivamente è comunque una canzone tecnicamente valida, molto valida. Ecco, però quando ha vinto l'Italia, che ho visto la sua faccia, io ho goduto tantissimissimo. Sì, anch'io. Okay. Vabbè, sono sempre svizzeri pure loro. Vabbè, no, perché poi l'Eurovision, vedi la fratellanza europea. Noi. Come va a finire? Ma soprattutto la Svizzera ci vuole tanto bene a noi in generale, se ne fotte dell'Europa. Quindi, tra l'altro, diciamo, c'è pure la vita. Tra l'altro, questa tra è l'altro. Ten Years, loro. Loro allora, sono qua, i nostri eroi, i nostri allora, vincitori niente. Del cuore. li porteremo falli, sempre. Falli sentire cuore. Sempre. Poi adesso fra 3 secondi abbasso e parlate. We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what happened if I never had your love. Vabbè, questo è disco anni 80, no? Allora, sì, non è, la canzone questa non è da ascoltare, è da vedere. È da guardare. Sì, perché, è da guardare. Perché insomma è una cosa già sentita milioni di volte, una cosa del genere. Sì, quando allora. Vai. Sì, di. Michela, vai pure. No, vabbè, perché cioè, a parte il video della canzone, proprio al di là dell'Eurovision, è eccezionale, è fantastico. Loro sono dei ragazzi, cioè veramente, sono islandesi e forse nel cervello degli islandesi ci deve essere un genio che ha procreato tutti gli islandesi, perché sennò non si spiega. Fantastici, veramente grandi ragazzi. Ah, e non vi racconto il video, perché spero che lo vediate tutti, perché è veramente molto bello. Solo se riuscite a trovarlo, perché si chiama. Sì, soprattutto perché da gigante. Cercate Islanda Eurofestival. Tiro bottoni fai da te, insomma, questo sì. Esatto. Però all'Eurovision, alla serata dell'Eurovision, tra l'altro, loro hanno registrato la loro apparizione perché c'era qualcuno. Era positivo. Qualcuno lui che era positivo al Covid, e quindi hanno registrato la loro apparizione. e si sono presentati, praticamente sono un gruppo di 4-5 persone, 6 persone. E oltretutto anche questa è una regola, non più di 6 persone sul palco. Così. 6 è il massimo. Mi sembra nuovo limiti una regola a cazzo, cioè, però. Certo, la canzone dura 2 minuti e 46. Ma la scenografia più bella ce l'hanno avuta loro, perché a un certo punto si sono trasformati. A parte il balletto fantastico. Vabbè, comunque sembra una canzone di Imagination questa. E sì, si sono trasformati in una pianola umana. Una tastiera umana. Vabbè, poi me lo vado a vedere. I gatti sarebbe stato orgoglioso degli di loro, islandesi. Esatto. Vabbè. Sì, comunque c'è da dire con questi ragazzi islandesi che innanzitutto, beh, in realtà è un gruppo, ma in realtà è solo lui, quello alto 2 metri, perché fa tutto lui. Gli altri sono finti, cioè sono suoi amici, ma non suonano, non cantano. In realtà la produzione musicale è sua, certo. E servono come coreografia. E appunto il balletto che fanno è uno degli elementi fondanti anche della sua identità, del tipo di gruppo. Poi se guardate il video capirete anche il perché il balletto è, diciamo, è un elemento fondante. E loro comunque sono molto famosi in Islanda, anche perché in realtà producono una serie televisiva, producono tanti contenuti. C'è un videogioco fatto da loro con loro protagonisti, c'è in pixel art, quindi sono molto legati al passato, agli anni 80, ma sono ragazzi giovani, quindi lo riproducono, insomma, con quello che è la loro, diciamo, la visione del loro, la loro visione, certo. La loro rielaborazione è una cosa che fa molto ridere, molto coinvolgente, quindi si meritano comunque il successo che hanno e non avrebbero mai potuto vincere, però sicuramente si sono piazzati benissimo e sono molto conosciuti in tutto il mondo e sono molto famosi anche su YouTube per i video che fanno, insomma erano conosciuti anche prima dell'Eurovision Song Contest. Beh, come gruppo perfetto. Adesso ci sentiamo invece, qui mi sa che siamo in Lituania, The Roop. Bravissimo. The Roop Discotheque. Discotheque. Going on here. Grandi, i lituani a me piacciono un sacco. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone. Mi piace che questa specie di richiamo un po' anche agli, qui siamo forse negli anni 90. Sì. È proprio quasi un tipo, ragazzi, tornare un po' indietro per recuperare qualcosa, insomma. Ma sono molto musica elettronica, sì. Molto, ma fatta bene. Quindi è vero che cantano in inglese, è vero che non è una canzone che identifica la Lituania, però almeno in questo caso è una canzone che ti rimane, è un qualcosa che comunque in quel genere lì, quindi la musica elettronica, giustamente come ha detto Simone, anni 90, è molto anni 90, ma è fatta bene, costruita bene, con un bel ritmo, e hanno fatto poi anche una bellissima coreografia. Loro sono molto molto bravi, molto fighi. Considerate che la Lituania con questa canzone, forse per il fatto che noi in Italia siamo molto discotecomani, perché arriviamo da Cassa Dritta, da Radio DJ, Cassa eccetera, è stata la canzone a cui abbiamo dato 12 punti, quindi il massimo dei voti della giuria italiana. Beh, devi considerare che i primi classificati. Io sono stato in Lituania in una transizione tra il post-comunismo e la richiesta d'adesione all'Unione Europea, e la Lituania, per quanto piccola, per quanto post-socialista, era comunque molto europea come nazione, cioè guardava proprio molto all'Europa, no? E quindi anche come abitudini, come tipo di negozi, insomma, quindi non mi stupisce il fatto che abbiano magari questo tipo di richiamo molto più internazionale, ecco, diciamo che magari che è strettamente etnico, diciamo così. Michela, tu vuoi di qualcosa? Ma a me cioè alla fine mi sembravano un po' stile Depeche Mode, cioè anche il cantante è molto preparato, molto, diciamo. Pensa così, che il brano dura esattamente 3 minuti. Proprio spacciato. Ma mi sa che c'è un anche diciamo così, un tempo da rispettare. Sì, sì, l'ha detto prima Gallo. Sì, abbiamo detto 30 volte. No, l'hanno rispettato molto bene, intendeva, signore, no, mentre gli altri magari scarravano per qualche secondo. Sì, sì, sì. Diciamo che più o meno la media dei brani è 2 minuti e, 40, e 56 secondi, tranne qualcuno loro che sfora di qualche cosa, invece dopo 3 minuti esatti esatti, insomma. Esatto. Senti, poi comunque c'è molto un brano tecnicamente bello. Beh, no, insomma, ci sarebbe l'Ucraina, che l'abbiamo già sentita. L'abbiamo sentita, e adesso ci sentiamo voilà. Allora, voilà. ci sentiamo. Aspetta, aspetta, che questo è importante, eh. Arriviamo un secondo e poi vi scatenate. È normale, no? Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Toi, toi, toi. C'est tout. Toi, Marotelka. Voilà dans le bruit. Je trompe le coup. Regardez-moi. No, allora ragazzi, cioè questa è una canzone francese, questa Francia da subito. Questa è una canzone francese talmente classica, antica, cioè antichissima. Ma non è solo antica, perché antica ci può anche sta, cioè io non è che critico questo, è che è talmente classica e che è identica a tutte le altre, cioè non, vabbè, non è diciamo. Comunque sia la Francia, che poi non ho capito perché era così favorita, che la Spagna veramente si sono presentati con due cantanti che erano alla stregua di Gigi D'Alessio per noi italiani, insomma. No, vabbè, non esagerare, puoi dire una cosa del allora, cuore. Questa canzone rispetto a Gigi D'Alessio sta su un altro pianeta, certo. Artisticamente lei, cioè questa sonorità un po' da Amélie, capito, cioè ci stanno, è solo che è come ha detto Carlo, è la Francia, cioè tu c'hai rotto il Sprizza Francia, esatto, tu m'hai rotto il ca, je te rompe il cul. Tra l'altro poi i tanti meme che si sono diciamo così susseguiti al giorno successivo della vittoria dei Maneskin, dopo sì. che Damiano ha fatto il sì, test, tantissimi voilà col test negativo, insomma, quindi sì, sì. Ma sì, perché poi i francesi siccome sanno perdere, no, i francesi, sì, sì. Allora Anche i tedeschi. No, forse i tedeschi sono peggio. No, i tedeschi sono peggio perché i tedeschi piano per culo preventivamente, sì. E poi dopo stanno zitti. I francesi invece dopo, capito? I tedeschi si sentono sempre migliori, quindi insomma. Comunque, io direi che questa qua era bellissima perché lei muoveva tutte le braccia, sembrava un polipo, sembrava una cosa. Senti, qualcosa appassionava proprio. Cioè che secondo me per lei non ha mai cantato una canzone così bella, secondo lei, capito? Quindi ci credeva veramente. Ma guarda che se leggi in giro, famosa. Se guardi in giro è esattamente così, cioè erano tutti molto caricati. Tutta la Francia diceva una canzone bellissima, era ma perché portata lo è? Perché, in palmo di mano. Allora, perché se noi ci ha avuto anche tanti voti, ha avuto anche tanti voti. Ma se guarda che se tu decontestualizzi è una bella canzone, È solo che noi la vediamo, la possiamo criticare perché con gli occhi della Francia, ma no, perché non ci hanno avuto il coraggio poi, no, alla fine. Sì, è vero. Ha scoperto nell'Eurovision a Madari sono state dedicate diverse canzoni. L'ho scoperto proprio guardando la finale. Perché poi vabbè, ma Faraò, ce la fate il secondo? Quando parte la canzone? The army of lovers. Allora, io ho visto pure la parte scenica di sta canzone, ma a me la canzone piace. Cioè. Sì, è una canzone piacevole. E soprattutto lei è una azerbaignocca. E quindi azerbaignocca è un nuovo coniato dalla Crusca. Allora, comunque Madari era un agente segreto olandese che è stato condannato alla pena di morte. Perché era una spia, in realtà. E quindi l'Azerbaigian ha deciso di dedicare una canzone a un personaggio olandese, storico olandese. Non so se voleva essere una provocazione, un omaggio. Questo va interpretato. Ma io penso che Madari ci avesse origini medio orientali, no? Giusto? Non dico una cazzata. No, è olandese. Può essere, non lo so. Non mi sono informato su questo fatto. Mi sono fermato alla cantante. Vabbè, sì, comunque ci sono film e film a go-go, insomma, su Madari. Comunque ha avuto un bel successo. Comunque il nome originale di Madari è Margherita Gertruida. Difficile che ci abbia Margherita Gertruida. Sì, ma siccome era una spia, una faceva finta di essere esatto. Medio orientale, esatto. Una roba del genere. Sì. Però vabbè, comunque comunque c'è poco da dire, insomma, una canzone dance carina, fatta bene, carina e soprattutto bella, sì. No, ma è pure una bella produzione, belle sonorità, in Azerbaijan ci stanno belle ragazze, insomma, abbiamo capito, esatto. Anche bravo. No, non è detto, cioè, voglio dire, quella è carina, insomma. Dai, però si stanno Fallen Angel. Eccoli qua, i norvegesi. Gli altri rocker della... What can I say? I can't make her stay. Ah no, ci ha sbagliato, scusa. Ho sbagliato. Vabbè, c'era il clone, era... Scusatemi. Che è successo? Allora, ho sbagliato, credevo che erano quelli i rock, invece no, Kix. Questo norvegese era quello che è uscito con le ali d'angelo, che era praticamente il clone di Elton John. Cioè, magari era un fan e voleva essere recitatorio, insomma. La canzone era assolutamente dimenticabile, anche questa che abbiamo sentito mille volte nei titoli di coda di qualche filmetto di quart'ordine. Prima con la Finlandia ad ascoltare i vincitori. Vabbè, voglio ancora. Adesso. Prima che andiamo ad ascoltare i vincitori, perché ci siamo ripresi in coda dopo il preambolo di un'ora, abbiamo fatto sentire tutte le canzoni praticamente. Io vorrei dire che comunque questa Eurovision è stata un'Eurovision un po' più triste, non solo per il Covid, ma soprattutto perché non c'erano i Little Big, ovvero i Piccolo Grande. Piccolo Grandi doveva esserci l'anno scorso per la Russia. Eh sì, esatto. E l'anno scorso hanno fatto faville. Beh, però sanno, era più importante quella che ha partecipato piuttosto che... Sì, certo. Assolutamente sì. Allora ragazzi, io faccio sentire adesso, e poi dopo ci sentiamo velocemente anche tutte le altre. Però magari raccontiamo pure un po' quello che è successo, perché questo è abbastanza determinante, però un secondo soltanto, giustamente. Tra l'altro diciamo che la canzone... La facciamo sentire tutta? No, tutta. Poi ci arrestano, tutta... Vabbè, dai, un pochino facciamo sentire. Dai. Però diciamo che la canzone vincitrice dell'Eurovision Sound Contest 2021 doveva essere squalificata perché dura 3 minuti e 12 secondi. Ai. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quei lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Ma diversi da loro. Beh, ragazzi, allora diciamo una cosa: che la canzone è bellina, bella, mi piace. Capolavoro. Oh, capolavoro è una parola grossa. Capolavoro assoluto. Capolavoro. Luca Mazzai ci dice che per lui sono inascoltabili. Fantastico. Io li... non capisce niente. Io no, vabbè, no, perché... morite tutti. Vabbè, from Roma with love conquisteremo il mondo. Tra l'altro, la figlia di Jimmy Page oggi ha fatto sapere che è innamoratissima del batterista dei del batterista che è una donna, no? No, allora, io non li conosco. Ma perché devi continuare a fare queste battute? No, la bassista, no, è una ragazza e carina, brava, veramente. Sono tutte di Roma, sono tutti di Roma. Vabbè, comunque il discorso è che ho sfumato perché essendo l'hit del momento questa, ci saranno sicuramente tutti i bot, gli algoritmi della CIA che stanno a venire a rompere il cazzo. La polizia che entra dentro casa. Esatto, esatto. Venga con noi. Vabbè, questo succedeva a Radio Radicale nel 1970 e qualche cosa, insomma. E bella la canzone. Dire qualcosa tu, Michela? Vai. Sui Maneskin o in generale? Su quello che te pare. Cioè, vedi. No, sui Maneskin. Ah, sui Maneskin, vabbè, io comunque sono veramente contenta di questo risultato, perché una volta che stavano lì, una volta che ragazzi giovani, comunque giovani, volenterosi, che comunque hanno scavalcato tantissime difficoltà e hanno conquistato tantissimi podi, comunque ragazzi che vengono da Roma e conquistano l'Europa, quindi non potevo far altro che tifare Italia. Ma al di là del fatto che non è che abitualmente ascolti i Maneskin, però sono anche madre di un ragazzo di 22 anni, quindi c'ho questo senso materno che dire bravi ragazzi, magari fossero figli nostri. Esatto. Simone, tu vuoi dire qualcosa? No, io dico che al di là di tutto, in generale, vabbè, non neanche io sono proprio un appassionatissimo, però diciamo che il fatto, anche proprio il senso di partecipazione, no? Non tanto d'appartenenza, no, da partecipazione comunque dei ragazzi che vengono comunque da cioè, se tu vai a vedere, comunque rispetto a tante altre canzoni anche belle, secondo me ci stavano, non demeritavano, diciamo. Maneskin, volevo dire anche questo, perché che hai fatto? Manuel ha sempre tifato Maneskin, perché Manuel Agnelli li ha scoperti, li ha portati in auge con X Factor. Sì. Io allora devo dire che vabbè, io invece sono un fan dei Maneskin, li seguo dall'inizio, dalla prima, ma su serio, nel senso, prima veramente. Cioè, mia figlia ha la stessa età identica della bassista. Carlo fanboy dei Maneskin, lo vedo al concerto dei Maneskin. No, al concerto non c'è. No, diciamo che ho mia figlia che ha 20 anni e che lei è alla stessa età della bassista, e comunque quasi la maggior parte dei ragazzi che hanno l'età di mia figlia o di tuo figlio è un gruppo assolutamente famosissimo. Ma devo dire che io, come tu hai detto, per me vince la Svizzera. Io sin dall'inizio ho detto vincono i Maneskin da subito, anche se non lo dicevo, diciamo, per scaramanzia, ma semplicemente per un fatto. Poi provate solamente a cercare su YouTube, vedete su YouTube e fate Maneskin Reaction, Maneskin Eurovision Reaction. Allora, prima cosa succede? Prima dell'Eurovision tutti i video di tutti i paesi partecipanti vengono diffusi molto prima, perché vengono fatti vedere quasi un mese prima dell'inizio del, quando viene finita la selezione, tutti vanno a vedere chi sono i partecipanti, le canzoni, e su YouTube è un diciamo un esplodere di reaction di gente che si inizia a guardare tutti i partecipanti prima che ci sia diciamo l'evento, e fanno le loro reaction alle varie canzoni, no? Quindi sia youtuber famosi, youtuber meno famosi, canali televisivi, personaggi, diciamo, musicisti, quindi che le commentano anche da un punto di vista musicale, tecnico, di tutti i paesi del mondo. Oh, allora, se voi smettete Maneskin, sì, infatti ne sono, e lo consiglio di fare Maneskin Reaction Eurovision, è un tripudio assoluto. Ma la cosa più divertente sono le facce che andate a guardare di questi youtuber, perché non si aspettano dall'Italia una cosa del genere. In molti di questi youtuber sono ragazzi, magari, o youtuber che seguono l'Eurovision Contest da tanti anni, quindi sono abituati. arrivano all'Italia e dicono: adesso c'è l'Italia, buone skin con zitte buone, no? Tutte varie pronunce diverse, tutte storte, mettono su parte. Allora, vedete delle facce, menti che bocche aperte così, per 5 minuti così, gente che si strappa i capelli, ragazze che piangono, quelli che saltano sui tavoli, dicono reazioni incontrollabili. Una delle più divertenti è una delle guarda, una delle più divertenti è questa qua. Questa è alla conferenza stampa. Loro si sono presentati alla conferenza stampa e hanno suonato e hanno cantato il grande poropopopo del 2006. No, una delle più divertenti è una trasmissione televisiva norvegese che poi è stata ripresa in alcuni video anche italiani, perché questi qua vedono, erano una trasmissione televisiva che viene fatta prima dell'Eurovision Song Contest a pillole, a puntate, dove commentano e vedono tutti i vari video dei partecipanti e fanno, diciamo, una loro classifica, una previsione di quello che sarà. Quando vedono il video dei Maneskin, questi norvegesi impazziscono, e la cosa divertente è che lì hanno una cultura decisamente, certo, dal punto di vista sessuale molto diversa dalla nostra, certo, okay? certo. C'è uno dei presentatori che dice: allora tu cosa ne pensi, Sgrovzlovz, no? Sgrondarlock. Questo è un tipo, diciamo, sulla quarantina, un po' cicciotto, seduto, fa: beh, io me li porterei in albergo dopo l'esibizione per un'orgia con tutti loro. No! Io se fossi, io non ce l'ho mai dato con un uomo, ma se fosse un uomo io andrei col cantante dei Maneskin. Deve essere lui, cioè sono impazziti completamente. Ma comunque guarda, io devo dire, al di là di tutto, chiudendo un po' sta questione, ed è anche, insomma, non torniamo sul discorso delle polemiche, l'abbiamo accennato perché tutto quello l'abbiamo raccontato, quelli sono francesi e basta, ecco, appunto, io quello che voglio dire è che si è fatto anche in Italia un gran parlare sul fatto che, vabbè, quelli che fanno gli intenditori di musica, no, allora dicono no perché questo non è rock o roba del genere. Io penso il fatto che comunque in mezzo a un come posso dire, una sciapettia dei musicisti tra virgolette che c'è oggi, comunque il fatto di avere un nuovo modello anche rock, anche a ispirare comunque i giovani magari a suonare il basso, la batteria, la chitarra, comunque prende ispirazione da un modello più rock rispetto a quello di cui sono più abituati, devo dire che tutto sommato alla fine non fa male alla società, insomma. No. Questo, no. Non so se no. Assolutamente no. Assolutamente no. E poi comunque guardate, perché se cercate le reaction, ci sono reaction anche di tanti esperti di musica rock eccetera, a cui viene consigliato dai lettori, dagli ascoltatori, di andarsi a guardare i Maneskin, e tutti reagiscono in maniera positiva, sia dal punto di vista della musica, della tecnica, del canto. È straconfezionata, cioè beh, è bella assolutamente, cioè, ma guarda che la qualità, c'è una super produzione dietro, sì. Bravissimo, e questo è il punto, emerge la produzione che molti all'estero non hanno, noi ce l'abbiamo, ed è una cosa che noi abbiamo e che noi quasi diamo per scontata, quasi questa nostra esperienza nella produzione musicale che si fa sentire, è indubbio. Guarda, io ho conosciuto diverse persone che lavorano nel mercato discografico, che fanno spesso e volentieri riarrangiamenti o costruiscono e compongono canzoni anche per gli artisti quelli più famosi, che sono di un talento e di una bravura incredibile, che spesso e volentieri sono schiacciati da fare le canzoni per Toto Cutugno, cioè nel senso, per capirsi, insomma, quindi alla fine è questo, io vorrei ascoltare velocemente alcuni degli altri, insomma, poi vediamo fino a dove ci rompiamo, no? Va bene. E per esempio qui c'è Growing Up, no, ma quella è la più noiosa di tutti. No, buttala via. Mamma, la Bulgaria, mia. Dai. Questa fa schifo. Allora, fa schifo. Sugar. Yeah. I can't explain it, but there's something. Ah, Moldavia. Senti che vocetta che c'ha questa. Oh. Questa è un'altra gnocchettina. Questa c'è la vocettina. Tra l'altro, la cantante moldava e la cantante albanese erano vestite uguali praticamente. Sì, è vero. Erano lo stesso vestito. Infatti, come dopo, se nei camerini si sono accoltellate. No, oppure se lo sono scambiato. Beh, cioè, questa comunque era. Ah, giro, c'ho il vestito, che me lo puoi dare tu? Simone, senti un attimo, questa non ti ricordo una canzone ne ho tantissima. Prova a sentirla. Questa, senti. Beh, parte se sono lì da qua, no, perché no, no, prima nella gonnellina che gli si muoveva tutta. Vabbè, poi... con le pagliette, quindi... prima nella parte prima diceva let me body talk, let me body talk è il titolo di una canzone degli anni 80. Sì, certo, ok. Diciamo che tantissimi si sentivano delle... Questa che cos'è? Voices. Sì, voices. Questa era carina anche. Questa si chiama Tusse. Aspetta. Carina. Non mi ha detto niente. Anche questa. Roba sentita mille volte, insomma. Sì. Loco Loco. Eccole qua, quelle eccole, che le spilcone, le bellone, le coscettone, veramente belle, cioè tre belle donne, veramente belle serbe, come sono le serbe. Ma se io non sono una bassa, non una bionda sente. E una mora. Ah, ok, sì, erano sì, bionda, mora e rossa, c'erano tutte, esatto. Ah, quindi era la bandiera della Germania, insomma, facevano. Ma poi Loco Loco è una parola serba, scusate. No, no, è spagnola. Ma comunque è una canzone dance classica, niente di che. Infatti non mi dice niente. Allora, Set Me Free. Questa qua, Set Me Free, è Israele. Eccola qua, quella di Israele. Ah, americana, canzone americana. Sentila, è americana proprio. Eden. Sì, Miami. Sì, vabbè. Una classica pop americana. Anche qua titoli di coda del filmetto amoroso, insomma. Sì, esatto. The Wrong Place. Uberphonic, niente meno. Uberphonic, questi erano bravi, ragazzi. Questo già non mi dispiace. E beh, sono gli Uberphonic, ragazzi, sono un gruppo famosissimo. Uberphonic! Chi so? No, gli Uberphonic, dai, un gruppo che è stato molto famoso negli anni 80-90. Ah. Infatti erano tre anzianotti, che comunque la canzone è carina. La tipa che canta però non è anzianotta. Invece. Pure la tipa che canta è anzianotta. Yes. Karma! Ma questa inizia tipo... Albania, Anxela per i tre. Vestito alla Serbia. Quella con le mutande di Ghisa, praticamente. Le mutande di Ghisa. Vabbè, questa canzone non mi dice proprio niente. No. Adrenalina. Questa aiuto. È la nostra Beyoncé San Marinese. Che cavolo c'entra con San Marino, lo sanno solo loro, però vabbè. Che non senti le sonorità Emiliano Romagnole? E certo. Senit è il nome. Ma questa Senit, probabilmente sì. Sta a San Marino, ma non è di San Marino, forse per pagare le tasse. Non sta neanche a San Marino, non è neanche San Marinese, proprio abita a Bologna. Bravo San Marino, bravo, complimenti. Esatto, hanno comprato molti una San Marinesi vivono. Ok, vabbè, ci sta, perché San Marino è uno sputo, quindi ci sta. Se voi andate a studiare, andate da qualche parte. Birth of a New Age. Questa non me la ricordo proprio. Ah, forse questi sono i rocchettari. Questi sono i Jengu Macroji. Macroi. Ah, questi sono quelli che sembrava che... Se li ricordi? Mi sa che sono quelli che... Gli olandesi. Paesi Bassi, sì. Gli olandesi. Questi sì, erano quelli che non sapevano ballare, quelli che facevano la mossettina. Troppo ridere questo. They poison your ground. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. Aspetta, non è nero forse questo. No, non mi ricordo. Non me li ricordo questi qua. Io. Vabbè, e non se ne caga di nessuno. Insomma, questa è la cosa più bella. Comunque c'è voi. Voi a guardarmi. Ah, lo spagnolo. Ah, voi a guardarmi. Cioè, sì, spagnolità. Ma spagnolità guarda, da tutte le parti. Che è la Francia, totale. Che me vuoi guardare? È una canzone spagnola che sprizza spagnolità. Blas cantò. Che sprizza noia da tutti i pori. Vabbè, ma tutto sto razzismo che c'è, che c'è, vede. Comunque le canzoni spagnole alcune sono veramente noiose. Allora, più che una canzone spagnola, questa c'ha le sonorità delle classiche latine che si sentono d'estate. Proprio. Gianluca, l'Islanda, sì. Gianluca ci chiede, ma l'Islanda? L'Islanda noi l'abbiamo già fatta ascoltare. E soprattutto abbiamo dichiarato il nostro amore nei confronti del gruppo irlandese, il cantante. Tante irlandese, soprattutto islandese, se non fosse stato per il fatto che tifavamo comunque per l'Italia, loro sono i nostri vincitori del cuore. Senti, questa canzone che parla in inglese, però cioè, è proprio noiosa, ragazzi. Quindi, I don't feel hate. Germania. I just feel sorry. Oh, questa qua proprio da allora. I don't feel hate. Aspetta. I just feel sorry. Voi i tedeschi lo conoscono in inglese? Chi? I tedeschi lo conoscono. Allora, i tedeschi conoscono l'inglese tranne che nei posti dove stavamo noi, cioè tranne no, dove conosco. Siamo andati noi. No, non conosco. In generale a Berlino sì, cioè nel senso quello che so a Berlino comunque noi non ci abbiamo avuto problemi a parlare l'inglese con la gente, anche con gli autisti, e anche soprattutto con gli ubriachi. Però come esci da Berlino scansate proprio. La cosa bella è che sta canzone ricorda le musiche, quelle che compri su Sound Forest, cioè su Envato, esatto, praticamente. Cioè, esatto. Vabbè, ma qual era più l'esibizione? La Germania ha presentato questo ragazzo, Jendrik, che si è presentato con un ukulele tutto ricoperto di brillantini, con un balletto di una tizia che era vestita da mano, che praticamente quando abbassava le mani faceva il dito medio, perché c'aveva il dito sopra la testa. grande. E comunque è stato molto divertente. Diciamo che la Germania si è presentata con una specie di Elio le Storie Tese, se vogliamo, tedesco, qualcosa del genere. Comunque era un ragazzo molto, molto simpatico, che poi ha parlato un po' con tutti, eccetera. Faceva un po' lui è stato uno, anche lui, insieme all'Italia, uno dei di quelli che ha dichiarato che l'Ucraina con la canzone Se io era una delle più belle, e facevano il balletto quando c'era, si mettevano a ballarla tutti insieme, insomma, cantavano. Vabbè, comunque una nota di folklore, diciamo, della Germania che ha portato. E poi era completamente ubriaco, ma completamente ubriaco. Ha fatto bene. C'è un'intervista su YouTube che tentano di intervistarlo dopo, che fa morire da ridere perché non riesce neanche a mettere insieme le parole di quello che sta dicendo, e dichiara: scusate, ma io sono ubriaco. Lo dice così, si vede. Embers. Questo già il titolo non promette. Sometimes I know è il Regno Unito d'Inghilterra. Qui raccontiamolo. Non era male la canzone. Non era male. Vabbè, non la canzoncella. È stata punita. Sì, però è stato punito molto. Sì, è stata una cosa politica proprio. Cioè, nel senso. Lui James Newman, devo dire che come tipo è molto simpatico. È stato anche molto divertente. Ha reagito benissimo al fatto che ha preso 0 punti. Si è messo a ridere. Ma perché lo sapeva. E comunque è stato forse un po' troppo punito rispetto alla canzone che ha presentato, ecco. Però è così, la UK hanno preso 0 punti, però sia dalla giuria che dalla... tutto sommato ogni tanto, insomma, anche a ricordare dai uno scappellotto dietro la schiena non è che fa proprio male. Poi alla fine lui comunque dici bene, magari comunque lui se la kermesse se l'è fatta dal suo punto di vista, comunque sì, anzi forse ha avuto successo proprio per aver avuto 0 punti. Bravo. A metà classifica non se lo cagava nessuno, ecco, diciamola così. Vabbè, la prossima canzone io non vi dico come sentito. Ricca Last Dance Ove Ospa in Anden. Ma qual è? Last Dance con Ricca. Questa è una canzone italiana. La Grecia. Ah, scusa, stavo abbassando il cursore tuo. No, non è la Grecia questa. Chi è questa qua? Questa è Fir Og Flamme con Ove Ospa Hinanden. Ah, sì. Michela, sono quelli lì della semifinale, ah, quelli sì, che non sapevano ballare e quelli che erano anni ottantissima. Grandi. No, questa è una canzone italiana degli anni 70, 80, 80 disco, cioè proprio. Ma se vedi fa morire da ridere, cioè, sono ricchi e poveri questi, se tu senti. Tenta di accennare, un balletto e non ci riesce. Vabbè, perché se non sei portato. Comunque carina, la canzone è carina. Ricorda la canzone di ricchi e poveri, cioè. Non so, però vabbè, comunque, Omega. Honestly, don't care. Questo si chiama Belli Cristo. Non me lo ricordo proprio. Io me lo so perso proprio questo. Bello. Questo è Benny Cristo, probabilmente l'hanno eliminato. Non so neanche di che nazione è. Sì, perché poi alcuni paesi neanche in finale, cioè magari alla semifinale non sono arrivati, esatto, però... li hanno fatti fuori in semifinale, esatto. Vincent Bueno con Amen. E eliminato anche questo, non è arrivato in finale. Non lo so. Niente. Sì, ma era veramente una palla sta canzone. You said that it's time for us. Vabbè, ma se palle, già. Poi senti tutti in inglese, tutti uguali, cioè veramente inutili. Sembra canzoni un po' inutili. Tipo, cioè ricordava vagamente un cantante irlandese tipo che cantava The Flower Daughters, una specie di vabbè, una cosa del genere. Comunque, vabbè, dai, una bella palla. Questi dopo sono i Mountain con Technicolor. Ah sì, questi anni 80 anche loro, eliminati anche loro, non sono arrivati in finale. Vabbè, tutti uguali comunque, cioè. Tutti uguali, sì. The Lucky One. Non so chi sia, io sono il terzo. Uku Suviste. Uku Suviste con The Lucky One. Mi dispiace, ma noi non l'abbiamo vista. No, questa non mi piace. C'è uno che non no, sa. Ma magari l'hanno eliminato in presto. C'è uno che gli sapeva fatica a pensare a un titolo, e allora l'ha chiamata You. Anche questa è eliminata prima della finale. Non c'è. Torniche. Chi piani? Ma che nazionalità so queste, scusa? Bello se l'ho messo. Che ne so, dove l'hai messo? Oh madonna. Via, salta. La voglio sentire tutta. Ti uccido. La prossima è Albina, poverina Albina questa qua. TikTok. Ah sì, eliminata anche questa. Eh sì, beh, per forza, se no. Presto eliminata. Molto presto. Eliminata prima di uscire di casa questo. Try to fix the broken pieces, sono tutti uguali per davvero. Sì, ma poi è quello che ti dicevo all'inizio con Michela, cioè, hanno presentato delle canzoni che sono canzoni standard in inglese, dance, normali, pop, che non hanno nessuna personalità. Hanno capito? Puntato proprio alla vendita. Invece quelli che sono andati un po' più sull'etnico, secondo me. Comunque dobbiamo dire una cosa, mo, a parte la carrellata di canzoni, non abbiamo detto che i Maneskin comunque con il voto delle diverse nazionalità, quindi il voto interno all'Eurovision, non avevano vinto, ma erano arrivati tipo settimi, ottavi? No, sesti, sì, sesti o settimi, giù di lì, insomma. Ah, sì, però, no, guarda che allora, una cosa è, però c'è da importante da dire, che il distacco non era elevato, cioè le prime 5-6 posizioni, anche se la Svizzera e la Francia erano più in alto, i voti comunque li hanno presi, cioè i Maneskin hanno vinto perché comunque hanno avuto anche tanti voti comunque dalla giuria, anche se non sono arrivati i primi. Poi hanno avuto tantissimi voti dal pubblico, voti e quello li ha fatti pubblico che comunque non ha votato l'Italia, quindi questa è una cosa importante. No, pubblico estero, sì. Certo, assolutamente. Noi, come ho detto, abbiamo fatto vincere la Lituania con The Roop, sì. Discotech. Che poi tra l'altro anche e il pubblico italiano ha dato tantissimi voti all'Ucraina con Shum, quella canzone che tra l'altro Angela in chat dice: ma l'avete detto che ha vinto l'Italia? Giustamente perculando Carlo Sant'Agostino. È stato il mio tormentone di quella sera, esatto. Allora questa qua invece, Leslie Roy con Maps. Salta. Queste canzoni sono nuove per noi. Allora, guarda, sono quelle del prossimo. Devi mettere la Finlandia e che con Blind Channel. Allora, della Finlandia è Dark Side, la vabbè. Canzone Dark Side. Allora, tanto vi beccate Samantha Tina con The Moon Is Rising, eliminata anche questa in semifinale, non è arrivata neanche in finale. Sì. Here I Stand. E chi è? Vasily Garvanilev. Mazza e palle. The Ride. Rafale. Rafale con The Ride. Non è arrivato in finale neanche lui. Beh, questa però ci vuole stare. Sì, anni 80 anche questa. Anni fa. Roxanne, Amnesia. No, ma guarda che mi sta che stai prendendo. No, questa sta proprio nel disco ufficiale, sta roba. Non te puoi inventare niente. Secondo me oh, sta nel disco ufficiale. Sono nel disco ufficiale. Comunque c'è Anna Soklik con Amen, pure questa Amen. Sì, ha eliminata due Amen, c'erano tutte e due eliminate. Ok. Nessuna delle due è andata in finale. E adesso Blind Channel con Dark Side. Gli altri rockettari. Wow, senti che sonorità. Eccoli. E ci sono proprio rock pure. Questa è bella, oh. Rock. Questa è bella, vera? Oh. Infatti hanno avuto un ottimo piazzamento anche loro col pubblico. Sì. I don't wanna cry, so I gotta get paralyzed. My body's my weapon, so I keep it loaded till I'm all over the place. Like my questo è un rock contaminato con un po' di rap vecchio stile. Gagliardo, mi piace. Devo dire, Gagliardi. No, la Finlandia è proprio il loro genere, perché comunque certo, la Finlandia ha vinto. Ci credo che hanno vinto i Maneskin. Beh, certo, dopo sta carrellata che ci hai fatto sentire, insomma. Allora, io ho messo le canzoni del disco ufficiale, non è che me le sono inventate io, Sì, una più brutta dell'altra, va bene, dai, per fino ad arrivare comunque la Finlandia si salva, dai. No, questa è carina Blind Channel con Dark Side era l'altra canzone rockettara del festival. Invece Destiny ci ascoltano sempre, perché hanno fatto una canzone che si chiama Je me casse. Scusate, ho sbagliato, però vabbè. Je me casse. Casse? Malta questa. Allora, questa qua è arrivata. Questa era una delle favorite, considerate, questa di Malta. Beh, bella voce. Lei bella voce, però a me non piaceva la canzone. Malta ci sta che cantano in inglese perché è la lingua ufficiale. Certo. Poi c'è sta Stefania, conoscete Stefania? Quella sotto casa. Questa è la Grecia, la Grecia. Stefania è quella che venne. Esatto. Questa qui era quella che aveva il video di Disco Ring con l'effetto. Infatti sentito la Last Dance. Esatto. Ed è finito, ragazzi. Questa è l'ultima. Se li siamo levati d'arca. La canzone è carina, ma con la Grecia c'entra poco. Beh, oddio, un po' sto richiamo un po' mediterraneo, un po' medio orientale, c'è, dai. Proprio male male, no, però... è carina la canzone, è carina, sì. Vabbè, ragazzi, mettendo Sciumi in sottofondo, Gira Sole che è arrivato adesso. Sì, ciao Sciumi. Ciao ci tira su tutti, esatto, dai. Mettiamo Sciumi in base e facciamo le conclusioni, insomma, diciamo che Sciumi era la mia preferita, infatti, dopo i Mane, sì. Infatti, allora, sì. Io devo dire che vabbè, ho tifato la Russia anche per vabbè, l'importanza per, giusto. E anche perché comunque la canzone è bella, giusto, cioè, giusto. Non sì, vabbè, diciamo più per l'importanza. Però i vincitori del mio cuore sono sempre gli islandesi, proprio lì stanno proprio nel cuore, restano sono quelli di Dagi Og Gaman 10 Years, però l'Islanda era quella non da, da sentire ma da vedere, sì. Anche per sì. me erano bravissimi, ma non era una come si canzone. Chiama la canzone? 10 Years Dagi Og Gaman 10 Years, si chiama 10 Years la canzone. Ok, 10 Years ce l'ho, è chiaro, ma quello mi dice Tanga da Gaman, il gruppo ah il gruppo sì, so Dajabi Flares Rob Doc. Va bene, dai, comunque alla fine è carino. Allora io dico una cosa, poi dopo chiudete voi, no? Allora, senza parlare come funziona il meccanismo, i voti, che non ce ne frega niente, alla fine l'abbiamo poi passato, ci siamo più concentrati magari su quello che sono state le nostre percezioni all'interno del meccanismo delle canzoni, di quello che c'è stato, vedi, abbiamo anche sovrasseduto sul discorso della polemica, pur facendone menzione, perché alla fine sti cazzi, no? Poi il risultato è quello che conta, e hanno vinto sta band dei giovani romani che portano un po' di aria fresca pur guardando alla tradizione, perché comunque certo. cioè, loro so di rottura perché fanno quel tipo di ispirazione a quel tipo di rock, no? Quindi alla fine dice vabbè, non si sono inventati niente, va bene che non si sono inventati niente, ma va bene riproporre il fatto che non ti sei inventato niente, ma che comunque è sempre un bel modello che ci riporta un po' all'anno in cui la musica diceva qualcosa, poi o faceva qualcosa, anche semplicemente il modo in cui ti presentavi sul palco, insomma. Detto questo, io non l'ho seguito, quindi l'ho seguito con voi queste canzoni. Tutto sommato c'è delle cose veramente belle e ci sono tanta roba che... Tanta lagna. No, più che lagna, dimenticabile. Cose che stanno lì perché devono fa mucchio, diciamo così, insomma. Esatto. Michela. Fermo. Io mi sono divertita soprattutto a commentare con Carlo, parecchi pezzi con Carlo, sì. La serata della semifinale mi sono divertita un sacco perché poi lui era super informato, quindi a volte chiede ma chi cazzo, non la so questi, quindi insomma è stato divertente questo, e mi piace anche questa cosa, insomma, di trovare un alleato nel Tresciume. Nel frattempo il cane si sta... No, mi mangia le caviglie. Perché mi mangia le caviglie? E quindi spero che ci siano altri eventi e che ci permettano, insomma, di commentare insieme questi personaggi particolari. All'orizzonte non credo che ci sia niente di particolare, perché quest'estate non credo che ci sarà qualche evento. Ma io credo di sì, invece. Credo però... di sì. Ah, tra l'altro non abbiamo detto che... Però l'Eurovision era aperto al pubblico. Questo sì, non l'abbiamo detto. Sì, era aperto al pubblico. Riccamente aperto. L'Olanda ha aperto al pubblico, sì, ma sì, anche un po' esageratamente. Nel resto d'Europa sembrerebbe che alla fine chi ha vinto, Gianluca? Chi ha vinto? Hanno vinto i Naziskin, hanno vinto l'Eurospin. Non so se l'ho detto, ma ha vinto l'Italia. Non so se l'ho detto. L'ho già detto che ha vinto l'Italia. L'hai detto. Non so se l'ho detto, ma ha vinto l'Italia. Vai, Michela, finisci. No, volevo comunque anticipare che in così in area di Eurovision e di cose, insomma, di estate che ritorna un po' alla vita. Questo è stato l'evento che ci ha riportato un po' alla vita mondana, sì. Ma poi arriveremo anche con Euroludica. Torneremo con una versione di Euroludica un po' nuova. Non si chiama Euroludica. Una versione rinnovata di Euroludica. Sì, oggi comunque è stato ma comunicato. Tornerò ufficiale. Io a raccontare le regole del gioco. E quindi mi raccomando. Quale gioco? Non si sa. Le regole del calcio, secondo Michela. Allora, Carlo, in chiusura poi vi spiego meglio, insomma, così chiudiamo poi questa puntata, perché oggi abbiamo fatto appunto questo annuncio, è ufficiale e lo faremo con una grande importante partecipazione, insomma, e un ritorno a collaborare con le stupide creature, che insomma, chi conosce un po' il mercato, la musica underground no sense, insomma, sa di che cosa sto parlando. Abbiamo già collaborato nel passato con Distinti Starnuti, un bellissimo podcast che è andato su Italian Podcast Network per molto tempo e che aveva riscosso tanto successo, fatto di gag, di cose che prendevano in giro il mondo del podcast, quindi ancora più divertente. Quindi insomma, ci fa piacere questo ritorno con Marco Bianchi e la loro combriccola, e ragazzi, ci sarà da ride sta botta, ci sarà veramente da ride. Però prima Carlo e poi chiudiamo. Ma niente, io volevo dire che non so se avevo già detto, ma ha vinto l'Italia. L'Italia, sì. Però sì, hai poi anche detto che chiudevi il collegamento qui dall'arena di Rotterdam. Esatto. Chiudo il collegamento dall'arena di Rotterdam e ripasso la linea allo studio centrale di Roma Monterotondo. Esatto. Vabbè, dai. Vabbè, comunque è stato bello e spero di aver dato qualche informazione per capire un po' di più che cos'è questa cosa che molti hanno scoperto quest'anno dell'Eurovision Song Contest. Insomma, ha divertito, è piaciuto. E l'anno prossimo, mi raccomando, Michela, facciamo live, tutte le serate. Lo facciamo in diretta, live, esatto. Sì, sì. Sì, mi raccomando. Sì, ci organizziamo in potenti mezzi. E speriamo che non ci sarà di nuovo un trasloco in corso, quindi sì, sicuramente sarà più facile. Bene, assolutamente. Bene, bene, bene. Allora, ragazzi, come abbiamo detto, oggi abbiamo annunciato questa cosa che è ufficiale, che si intitolerà Runtime Euro 2021, ragazzi. Perché non l'abbiamo chiamata Euro Ludica Ritorno? Perché va bene così, cioè tutto, c'è sempre un motivo per quando si fanno le cose. Comunque non si chiama Euro Ludica, anche perché non c'è più quel legame con Videoludica e via dicendo. Quindi Runtime. Ma Giovanni Giurganti sarà tra noi? Potrebbero anche succedere cose del genere, ma succedono cose anche migliori, a dir il vero. Comunque, Runtime Euro 2021 verrà ricordato. Ci saranno cose migliori, scusa se te, però mi è venuta in mente questa cosa. Ovviamente ci abbiamo Marco Gualdi, quindi Giovanni Giurganti non ci serve. Infatti, gli fa una pippa anche, diciamo, del francese. Comunque, Runtime Euro 2021, come ho detto, sarà la trasmissione che passerà alla storia del mondo del podcasting e delle web radio per il logo più significativo che difficilmente riuscirete a dimenticare. Non tanto per la sua bellezza, ma proprio per la sua bruttezza. Ma no, proprio per quel logo è stato fatto da un grafico che ha il padre che fa l'oculista, no? Cioè, quindi è proprio, gli ha detto: tu falla così, così almeno vengono tutti da me dopo a vedere le conseguenze che questo logo ha causato. È il programma con il quale noi seguiremo tutte le partite dell'Italia in diretta dei campionati europei di calcio. E ovviamente lo faremo per tutti coloro che della partita di calcio fondamentalmente non gliene frega un cazzo, però gli piace stare comunque. E seguiremo qualora non succederà mai, mai. E non lo diciamo, facciamo mai. Toccatevi tutto quello che potete, eccetera. Vabbè. Ma qualora l'Italia non sarà in semifinale e in finale, lo faremo comunque uguale, seguiremo, esatto, la semifinale e la finale, esatto, chiunque ci sia a giocare. Quindi appuntamento l'11 giugno alle ore 21, anzi alle 20:45, con Runtime Euro 2021, ragazzi, in diretta già, insieme tutti. Già l'11 giugno. Già. Oh mio Dio. E vabbè, comunque sì, poi vi daremo ulteriori spiegazioni e ogni partita dell'Italia, quindi l'Italia giocherà con la Svizzera, la Turchia e non mi ricordo adesso in questo momento. Ma nella Svizzera e nella Turchia ci sono le barbabietole da zucchero? Sicuramente, in Turchia ci sono sicuro, guarda, non ti preoccupare. Okay. E ci saranno collegamenti anche sul campo, insomma, quindi anche telecronache speciali. Ragazzi, ci sono delle cose che io penso che non abbiamo mai fatto un programma così organizzato, penso quasi a livello da radio professionale, quindi insomma mettetevelo in testa e seguiteci, perché almeno date soddisfazione allo sforzo inutile che stiamo facendo. No, non è inutile, no, è uno sforzo immane e inutile. Ci siamo divertiti, diciamo, tantissimo l'ultima volta che abbiamo fatto Euroludica. Io me la ricordo come una cosa divertentissima, molto molto molto, molto. Soprattutto la geografia, cioè la geografia raccontata da Marco Gualdi è veramente, esatto, uno spasso, esatto. Quindi sicuramente ci divertiremo ancora di più grazie comunque alle collaborazioni che ci saranno in questa nuova edizione. Benissimo, domani sera invece Ludico Forum torna con un gioco, con una puntata che parlerà dei giochi con insomma turn based, quindi con i combattimenti a turni, e domenica c'è sta Michela con un omaggio a Franco Battiato, esatto, che avrei dovuto fare domenica scorsa, ma e poi vabbè, con contingenze, sì, cose particolari, e c'è sempre un trasloco imminente in corso, quindi fatti, insomma siamo fatti un po' rintronati. Comunque togli quella canzone sottofondo che no, è brutta, no, adesso togli. Ci chiudiamo con questa noi. quella francese. No, no, togli la francese, dai, ma togli. Dai, Michele, chiudi, no, che andiamo volevo a volevo comunque invitare chi vuole a inviarmi il proprio contributo, il suo ricordo di Franco Battiato. Quindi se ci avete ricordi o comunque contributi da inviare per la puntata di domenica, potete farlo, io vi aspetto. Quindi brano più descrizione, brano più audio. Descrizione audio. Va bene, ok, perfetto. Benissimo, grazie a tutti, e grazie a Carlo, grazie a Michela e buonanotte a tutti. Ci vediamo da domani con il solito palinsesto di Runtime Radio. Togli i francesi, ciao. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Je te rappelle que ça me sauvera peut-être pas. Mais faire sans vous, je sais pas comment. J'ai tellement perdu. Tu m'as rôté le cas. Tu m'as rôté le cas. C'est quoi, là? Je veux quand même. Parce que moi, je suis bien aimé, mais contre. Buonanotte à tutti!